potete accomodarvi. Wow. Am I on? Yes. Look at you all. Cioè, guardatevi un attimo. It's great to see you. È bellissimo vedervi. Have you been having a good day? Avete avuto una giornata buona? It's about to get better. Sta per migliorare. It's about to get better. Sta per migliorare. Isn't it good to be together in God's house? Non è meraviglioso essere insieme nella casa di Dio? Isn't it good to praise? Non è meraviglioso lodare? To worship God together, adorare Dio insieme? To hang out with one another, stare l'uno con l'altro? Eat together, drink coffee together, mangiare insieme, bere del caffè insieme? Laugh together, ridere insieme? We love it. Lo amiamo. My wife and I are so glad to be in Italy. Io con mia moglie siamo così felici di essere qui in Italia. Everyone whom my wife has had the chance to talk to. E tutti quanti che hanno avuto la possibilità di parlare con mia moglie. She has told them how exciting it is to be in Italy. Lei ha detto a tutti quanto è felice di essere qui in Italia. Because being in Italy reminds us more of being in our home city of Melbourne. Perché essere in Italia ci ricorda un po' la città dalla quale proveniamo in Australia, Melbourne. So there's a lot of European influence in our city of Melbourne. Perché in quella città c'è un'influenza europea molto forte. Specifically, there's quite a large Italian community in particolare c'è una comunità molto grande di italiani. And so, living in England, e quindi adesso viviamo in Inghilterra. Is a little bit like torture for us. Ed è quasi una tortura per noi. We are there because of the call of God. Noi siamo lì perché sappiamo che è la chiamata di Dio per noi. We love the people who we're working with. Amiamo le persone con le quali collaboriamo. And God is doing great things. E Dio sta facendo cose meravigliose. But we miss our home city. Ma ci manca Melbourne, la nostra città d'origine. So you're just reminding us a little bit more of what it's like to be home. E quindi voi ci ricordate quel senso di essere a casa. We have lots of friends in Australia who have Italian heritage. Abbiamo tantissimi amici in Australia che hanno un'eredità italiana. And so you bring levels of warmth and hospitality that just warm our hearts. E quindi qui c'è quell'accoglienza, quel calore che ci fa sentire proprio a casa. So thank you for the welcome. Quindi grazie per il benvenuto. Thank you for being Italian. Grazie per essere italiani. Thank you for the loud talking and all of the gesticulations. Grazie per tutto il gesticolare e le conversazioni dal volume abbastanza alto. Thank you for the normal conversations for you that sound like arguments to us. Grazie per le vostre conversazioni che sembrano normali tra di voi, ma dal nostro punto di vista sembra che stiate litigando. Thank you for the great food. Grazie per il cibo meraviglioso. Thank you for the sunshine. Grazie per il sole splendente. Not that you did anything about the sunshine, that's God's work. Non che questo dipenda da voi, ma grazie ugualmente. So it's seriously good to be with you. Quindi davvero è così bello essere con voi. And we've been with Thomas and the team over the last couple of days. E negli ultimi giorni, in questo weekend, siamo stati con George e il team. And it was so easy to love the young leaders who came along to empower Italy. Ed è stato così facile amare tutti i giovani leader che sono venuti nel contesto di questa conferenza. And it was also very easy to fall in love with your pastor. Ed è anche molto facile innamorarsi del vostro pastore. He's not a bad guy, is he? Non è un ragazzo cattivo, no? Oh, come on! Come on, he's not a bad guy at all. Dai, possiamo mostrare un altro un po' più d'affetto. Non è male proprio. Yes, that's better. So let me ask you a question. Lasciate che vi ponga questa domanda. Is potential a positive word or a negative word? La parola potenziale è una parola positiva o una parola negativa? Is it a positive word or a negative word? È una parola buona o una parola non così tanto buona? How many of you think it's a positive word? Quanti di voi pensano che la parola potenziale sia una parola con un'accezione positiva? If you think it's a negative word, put your hand up. Se tu pensi che invece abbia un'accezione negativa, alza la tua mano. I think it's a positive word, right? Io penso che sia una parola positiva. If I was to say to you, se vi dovessi dire, wow, you have great potential. Wow, voi avete un grande potenziale. Oh wow, you'd be encouraged by that, right? Voi ne stareste incoraggiati. That would be an encouraging thing for me to say to you. Quella sarebbe una cosa incoraggiante da parte mia verso ognuno di voi. And the truth is, e la verità è, all of us do have amazing, amazing potential. Che tutti quanti noi abbiamo un potenziale meraviglioso. Gifts and talents that God has invested in us. Talenti e doni che Dio ha investito in ognuno di noi. But here is what I have observed. Ma questo è quello che io ho osservato. Some people carry this word with great heaviness. Alcune persone si caricano di questa parola con molta pesantezza. Let's think about the entertainment industry. Pensiamo all'industria di intrattenimento. Let's think about politics. Pensiamo alla politica. Let's think about sports people. Pensiamo alle figure sportive. We could all think of names of people. Noi possiamo pensare a queste persone. Who it has been said of them they have great potential. Sulle quali è stato detto che c'è un grandissimo potenziale. But they have never ever raised to the level of potential that they could. Che però non hanno mai raggiunto il livello del potenziale che potrebbero raggiungere. They have worn this word potential with great heaviness. Loro hanno indossato questa parola potenziale con grande pesantezza. And they have been crushed by it. E ne sono stati quasi distrutti. Or they have never risen to the fullness of the potential that they had. E non hanno mai raggiunto il livello del potenziale che loro effettivamente hanno. Let me ask you a couple of questions. Lasciate che vi ponga un paio di domande. What areas of potential? Quali sono le aree di potenziale? Unexplored or underdeveloped in your life? Che non sono state ancora scoperte o non sono state ancora totalmente sviluppate nella vita di ognuno di noi. Let me ask the question again. Lasciate che ve la domandi da capo. What areas of potential are unexplored or underdeveloped in your life? Quali sono quelle aree nella vostra vita il cui potenziale non è stato ancora raggiunto al massimo? What are you not doing that you should be doing with the gifts that God has given you? Che cosa non stai facendo che invece dovresti fare con il dono che Dio ti ha dato? What are you doing that you shouldn't be doing that actually robs you of your potential? Cosa invece stai facendo che non dovresti fare, che ti deruba del tuo potenziale? Let me mention some names to you. Lasciate che vi citi qualche nome. I think you will know these names. Molto probabilmente questi nomi li conoscerete quasi tutti. Italians like football, yes? Perché gli italiani amano il calcio, vero? You like football, yes? Vi piace il calcio? How did you go in the World Cup this year? Come è andata la come sono andati i mondiali quest'anno? If I remember correctly, Australia played in the World Cup this year. Se proprio mi ricordo bene, l'Australia ha giocato molto bene durante i mondiali. It is really hard work beating Vietnam. Believe me, it's very hard work. Cioè, è molto difficile vincere la squadra del Vietnam. Cioè, è veramente difficile. We play all of the really big teams to get in there. Cioè, per arrivare a quel punto abbiamo fatto del nostro meglio. You don't like me anymore, do you? Adesso non vi sto più così tanto simpatico, vero? Let me mention some names. Ok, lasciate che vi dica qualche nome. Pelé. Pelé. Maradona. Maradona. Beckham. Beckham. Ronaldinho. Ronaldinho. Thierry Henry. Thierry Henry. Come on. Pirlo. Pirlo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Lionel Messi. Messi. Neymar. Neymar. Stephen Wyndham. Steven Wildham. Me. Cioè che sono io. What? Why are you laughing? Perché state ridendo? Are you suggesting my name doesn't fit with those other names? Cioè, state per caso dicendo che il mio nome non c'entra niente in mezzo a tutti i nomi che ho citato? Actually, I had a very short and glorious football career. In realtà io ho avuto una carriera calcistica molto breve. In Australia we don't actually play much football, to be honest. In Australia noi non giochiamo così tanto a calcio, ad essere onesti. We actually play a number of other games. Giochiamo, pratichiamo altri tipi di sport. And in the south of Australia we play Australian rules football, not rugby. We hate rugby down there. Australian rules football. E nel sud dell'Australia pratichiamo non il rugby ma una specie di football con delle regole specifiche. So I used to play Australian rules football. E quindi io praticavo proprio questo sport, questo football. But our church had a football team, a football club in fact. E la nostra chiesa aveva proprio una squadra di football. Our church had 250 players in our football club. La nostra chiesa aveva tipo 200 persone che facevano parte di questo club sportivo. We had 15 junior teams. 15 squadre junior. Two men's teams and a women's team. Due squadre principali e anche le squadre del calcio femminile. And I thought it would be a good idea. E quindi ho pensato che fosse una buona idea di giocare a pallone, giocare a calcio. I'd never played before in my life. Non avevo mai giocato prima d'ora. But I thought, how hard can it be? Ma ho pensato, non sarà mica così tanto difficile. The ball's nice and round. La palla è carina e rotonda. Just goes nicely along the grass, no problems. Scorre bene sull'erba, non ci dovrebbero essere problemi. So I thought that I would play football. E quindi ho pensato che avrei incominciato a giocare a calcio. Now the biggest challenge for somebody who has never played football. Ora la sfida più grande per qualcuno che non ha mai giocato a calcio is to head the ball. È di colpire la testa con la palla con la testa. You need to understand. Cioè devi comprendere. That is an unnatural thing to do. Che è una cosa che non è naturale da farsi. Oh, here's an object coming toward my head. Oh wow, c'è un oggetto che mi sta venendo contro la testa. I know, I'll bang my head on that object. È giusto, la colpisco con la mia testa. Oh, I'm walking underneath a cliff. Sì, cammino lungo una montagnetta. Oh, a rock is falling from the cliff. Oh wow, una pietra sta cadendo. I know. So cosa fare. I'm walking underneath a building site. Sto camminando al di sotto di un ponte. A worker drops his lunch box from the building site. Un edificio, no? E qualcuno sta buttando delle cose. Oh, I know, I won't get out of the way. E quindi io mi dico, no, non mi sposto. I'll head the lunchbox out of the way. La colpisco con la testa. Now for you to head the ball is very natural. Ora per voi colpire la palla con la testa può essere molto naturale. But for somebody who has never played before. Ma per qualcuno che non ha mai giocato. It is the craziest thing to do, è right? È la cosa più pazzesca che si potesse mai fare. So in my first match. Quindi ero lì e stavo giocando la mia prima partita. I injured my knee. E mi sono fatto male al ginocchio. But I stayed on the pitch. Ma ho continuato a giocare. Because I'm a tough guy. Perché sono forte. The score was 3-3. E il punteggio erano 3 punti al di sopra, ma oltre. We had an old fat Hungarian man who used to play in our team. E nella nostra squadra c'era questo uomo ungherese molto massiccio, grasso. He could barely move, but he had fantastic ball skills. A malapena si poteva muovere, però aveva delle abilità. So we had a corner. E quindi avevamo un calcio d'angolo. And so I went up into the box, hobbled up into the box. Quindi mi sono diretto verso quell'area del calcio d'angolo. Some young guy started to mark me closely and started to push me. E c'era questo ragazzo più giovane che ha incominciato un po' a marcarmi, a spingermi. Remember, this is my first game, right? First game I've ever played. Tenete presente che stiamo parlando della mia prima partita. When you play Australian rules football, if somebody does that to you. Quando giochi il tipo di calcio che stavo giocando con le regole australiane, qualcuno fa qualcosa del genere? You just whack them, right? Tu rispondi contro, li spingi contro. So he's pushing me, I whacked him. Quindi lui mi sta spingendo e io che lo respingo. Then he's like, he left me alone. E lui adesso lui incomincia a indietreggiare. Istvan, the fat Hungarian guy, took the corner. Istvan, l'uomo abbastanza grasso ungherese, calcia il calcio d'angolo. I stood in the box. Io ero lì nella mia posizione. He almost put the ball perfectly on my head. E lui tira la palla nella direzione proprio precisa verso la mia testa. And my first and only goal I scored with a header. E il mio primo gol l'ho fatto con un colpo di and testa. We won the match 4-3. E come on. Abbiamo vinto la partita 4-3. Erano tre pari. Wow, what could have been? Wow, che cosa sarei potuto diventare? I could have been playing with some of those other guys I mentioned. Adesso a questo punto magari sarei uno di quei ragazzi di cui vi ho detto il nome. If you have your Bible, se avete la vostra Bibbia, I want you to turn to Genesis chapter 49. Vorrei che andaste in Genesi al capitolo 49. It's a really unusual chapter. Non è un capitolo molto comune. Because something happens here that is cultural that we don't normally do these days. Perché descrive un aspetto molto culturale che al giorno d'oggi non è così semplice per noi comprenderlo. So Jacob knows that he is about to die. Quindi qui abbiamo Giacobbe che sa che sta per morire. So he gathers his sons around him. E quindi lui raduna tutti i suoi figli attorno a se stesso. And then he does this thing where he kind of blesses them, prophesies over them at the same time. E quindi poi fa questa cosa che si trova un po' nel mezzo tra benedire i suoi figli e dare loro parole profetiche. And he calls forward his firstborn Reuben. E quindi lui chiama il suo primogenito Reuben. And I'm going to ask Naomi to read verses 3 and 4 of Genesis 49. E possiamo leggere insieme Genesi 49 dal 3 al 4. Reuben, tu sei il mio primogenito, la mia forza, la primizia del mio vigore, eminente in dignità ed eminente in forza. Impetuoso come l'acqua, tu non avrai la mia preeminenza, perché sei salito sul letto di tuo padre e hai profanato il mio letto su cui eri salito. Aren't they interesting verses? Non sono dei versetti abbastanza interessanti. It starts off so well. Cioè l'inizio è roseo. Reuben, you are my firstborn. Reuben, tu sei il mio primogenito. You are the first evidence of my strength and vigor as a young man. Tu sei la prima evidenza del mio vigore e della mia forza in quanto uomo. You will be first. Tu sarai il primo, la you primizia. You will excel in honor and you will excel in power. Tu sarai eccellente in onore e in potere. Come on, that's pretty good. Cioè, queste sono parole positive. There's great potential there for his future. C'è un grandissimo potenziale per il futuro di Reuben. But, oh, it takes an ugly turn. Ma poi ad un certo punto c'è un cambiamento radicale, it un takes po' brutto. An ugly turn very quickly. Cioè, velocemente, la situazione quasi si ribalta. You will excel, Reuben. Tu sarai eccellente, but actually you're not going to excel. Ma in verità tu non avrai nessuna preeminenza, non prospererai. Because your life is uncontrolled. Perché la tua vita è incontrollata. You are like a stream of water that is bursting over the rocks, the water spraying everywhere. Tu sei come un ruscello impetuoso dove l'acqua esce e schizza da tutte le parti. And there's a reference to his specific sin of actually sleeping with one of his father's wives. E c'è proprio un riferimento che vede Reuben dormire con la moglie di suo padre. Great potential. Qui abbiamo un grande potenziale. Great potential. Grande potenziale. He's the firstborn, right? È il primogenito. He's the firstborn. Cioè è il primo figlio. But because of his lack of self-control, ma siccome a causa della mancanza del suo a causa della mancanza di autocontrollo, he didn't have the character to take that firstborn's place. Non ha avuto il carattere che gli poteva permettere di prendere la posizione da primogenito. What are Italians like at queuing? Come ce la caviamo noi italiani con il fare la fila? What are you guys like at queuing? Come ce la caviamo? Come facciamo la come viviamo il vivere la fila? I haven't had many opportunities to observe Italian queues. Io non ho avuto tantissime opportunità di vedere un po' le tipiche file italiane. So I'm not an expert on the subject. Quindi non sono un esperto sul soggetto. But I have one experience of an Italian queue. Ma ho un'esperienza della tipica fila, del tipico essere in fila in Italia. Maylin and I were in Latvia recently. Con mia moglie eravamo where? Latvia. In Latvia. In the capital city Riga. E nella città capitale Riga. And we were in this amazing, amazing bakery. E eravamo a questo panificio meraviglioso. And it is so popular, there is a huge queue that extends right down into the restaurant. E questo panificio è così famoso che fuori la porta proprio si era formata una fila molto lunga di persone. And a busload of Italian tourists came. E un pullman pieno di turisti italiani si è approcciato a questo luogo, and si è avvicinato. I could hear them before I could see them. E io potevo sentire questi italiani prima ancora di vederli. And then when I could see them, e poi quando potevo vederli finalmente, I didn't yet know what the language was, but I could guess by all of the noise and all of the hands. Non avevo right? ancora capito la lingua che parlavano queste persone, ma ho potuto capire subito che erano italiani dal loro gesticolare, dal volume della voce. And I have never been in a louder queue in all of my life. E io mai prima d'allora mi sono trovato a fare la fila con così tanta confusione, con persone così rumorose. Cioè è stata la fila più rumorosa che io abbia mai sperimentato. Now, these people had been traveling in a bus together. Ora queste persone avevano viaggiato insieme in un autobus. They'd been sitting with each other all of the time. Cioè sono state sedute l'uno con l'altro per tutto il tempo. What is left to say? What else have you got to say? Che cos'altro avevano da dire? But the noise. Ma proprio questo volume alto. And there are a couple of Germans in the queue. E c'erano un paio di tedeschi nella fila. And a couple of these Italians looked like they might push into the queue. E un paio di questi italiani sembrava volessero passare avanti. And the German man in front of me, e il tedesco, l'uomo tedesco che mi stava di fronte, he could see this Italian man just kind of, you know, very cleverly making his way. Poteva vedere questo italiano, insomma, che sotto sotto cercava di infilarsi. And the German man said to him, "What are you doing?" E il tedesco subito fa, "Ehi, che cosa stai facendo?" And the Italian man said, "You're crazy." E l'italiano dice, "Tu sei pazzo, niente." And then he just went outside. E poi se n'è andato fuori. È uscito. Have you ever been in a queue in Africa? Sei mai stato in fila in Africa? I've had the privilege of spending quite a bit of time in Africa. Ho avuto il privilegio di trascorrere molto tempo nel continente africano. And I remember the first time that I went to a bank. E mi ricordo la prima volta che mi sono diretto in una banca. And I had some money that I needed changed into the local currency. E avevo questa somma di denaro che dovevo cambiare, no? Dovevo prendere la moneta locale. And so like a good Australian. E quindi, in quanto un buon australiano, you know, many of us have this English heritage. Molti abbiamo questa eredità inglese. I very politely stood in the queue. Molto educatamente mi sono messo in fila. And 15 minutes passed. E sono passati 15 minuti. And 30 minutes passed. E poi ne sono passati 30. And 45 minutes passed. E poi 45. And I noticed that I hadn't made much progress in the queue. E ho notato che insomma la fila non andava avanti, non c'era un progresso. Looking back on it, I can't believe it took me as long as it did to wake up to what was going on. Cioè adesso che ci penso, mi stupisco che insomma ci ho messo 45 minuti per rendermi conto di cosa stesse succedendo. So I thought, what is going on here? E quindi ho pensato, ma che cosa sta this succedendo? This queue isn't getting any smaller. Cioè la fila non avanza, non diminuiscono le persone. So I looked around. E quindi mi sono guardato intorno. And what was happening? People were just cutting in from both sides at the front. Of the queue. E quindi quello che stava succedendo è che le persone mi stavano passando davanti da entrambi i lati, a destra e a sinistra passavano avanti. And it was more like a mob than it was a queue. Era proprio un movimento di massa piuttosto che una fila. So I thought I'm going to have to work with this. E quindi ho detto vabbè, allora devo fare qualche cosa. So people would try and push in. E quindi quando le persone stavano cercando di infilarsi, stand in their way. Mi sono messo davanti, ho cominciato a mettermi davanti. Another one had come this side, you make yourself as big as you can. E per bloccare quello che veniva dall'altra parte, cerchi di prendere il più spazio possibile che puoi. And after about an hour, I was right at the front of the queue. E dopo circa un'ora ero il primo della fila. I'm about to put my money down. Sto lì sul punto di mettere i soldi che dovevo cambiare sul banco. And somebody else tries to cut in front of me. E qualcun altro si infila per passarmi avanti. It's like, are you kidding me? E cioè, ma stai scherzando, ma veramente? There I was at the front of the queue. Cioè io lì ero il primo, ero arrivato, ero il primo della fila. I had to stand my ground. E dovevo proprio proteggere il mio territorio. So that I could actually transact the business that I wanted to transact. Così che potevo fare quello per il cui ero andato in banca. You see, Reuben had the right position for greatness. Vedete, Reuben aveva la posizione più giusta per la benedizione piena. If you like, he was at the front of the queue. Possiamo pensarlo come a Reuben avanti alla fila, il primo posto in fila. But being at the front of the queue is no guarantee of gaining your destiny. Ma essere il primo della fila non ti garantisce il fatto che tu puoi ottenere, vivere il tuo destino. You might come from a great family. Forse vieni da una famiglia meravigliosa. You might have a good bank balance. Forse hai una situazione finanziaria soddisfacente. You might be well educated. Forse hai studiato tanto. You might have the right prophecies that have come your way. Forse hai ricevuto le giuste profezie sulla tua vita. You might have people around you encouraging you and telling you it can be done. Forse sei attorniato di persone che ti incoraggiano e ti dicono quello che potete raggiungere insieme. But that is no guarantee that you will inherit your destiny. Ma quella non è una garanzia che ti appunto garantisce che tu puoi ereditare il tuo destino. You have to stand and you have to stand firm. Devi stare in piedi e devi rimanere fermo. And the more significant your destiny, è più significativo, più grande il tuo destino, the more pressures you will face to rob you of your destiny. Più pressione e più ostacoli e tentativi di rubare quel destino dovrai affrontare. Positioning is important. Il posizionarsi è importante. But it's not a guarantee of inheriting your destiny. Ma non è una garanzia del nostro ereditare poi il destino che abbiamo. Just think of Reuben, think of Reuben. Cioè pensa a quello che è successo a Reuben. The priesthood could have been his. Il sacerdozio poteva essere suo. But it went to Levi. Ma passò a Levi. The lineage of the kings could have been his, but it went to Judah. I diritti di un re erano i suoi, ma furono passati a Giuda. The greatest portion of land could have been his. La più grande estensione della terra poteva essere sua. But it passed to the sons of Joseph. Ma è passata ai figli di Giuseppe, è stata data poi ai figli di Giuseppe. Reuben lacked the necessary character. Reuben non aveva il carattere necessario to fulfill the role that God wanted him to fulfill. Che le avrebbe permesso di compiere quello che Dio lo stava chiamando a fare. Water is a powerful thing. Water is a powerful thing. L'acqua è un qualcosa di potente. I come from Australia. Io vengo, sono australiano, vengo dall'Australia. And at times it's a land of significant droughts. E ci sono proprio stagioni sul territorio di grande, grande siccità. But at other times we have devastating floods. Ma poi ci sono anche stagioni dove ci sono quasi dei diluvi. When water is flowing within the banks of a river, quando l'acqua scorre entro i confini del fiume, or a channel of some description, o in un canale qualsiasi, it can be productive and it can be life-giving. Allora quell'acqua può essere produttiva e può dare vita. But when water bursts over those banks, ma quando l'acqua straripa oltre i confini, it can be incredibly destructive. Allora può essere proprio distruttiva quando va oltre i margini. And so it is with people. E la stessa cosa vale per le persone. When we are uncontrolled, quando non abbiamo autocontrollo, it's almost impossible for us to fulfill our destiny. È quasi impossibile per noi raggiungere il nostro destino. So what was his reward for this lack of character? Quindi qual è stato la ricompensa della sua mancanza di autocontrollo? This is pretty tragic. È tragico. His reward was inferiority. La sua ricompensa è stata l'inferiorità, una posizione inferiore. History tells us that his tribe was the first taken into captivity. E nella storia vediamo che le tribù di Ruben furono le prime ad entrare in cattività. No prophets, no judges, no spiritual heroes came from his tribe. Nessun profeta, nessun giudice, nessun eroe spirituale nacque dalle sue tribù. Listen to this carefully. Ascoltate questo attentamente. There were consequences of Reuben's lack of control. Ci sono state conseguenze della mancanza di autocontrollo di Reuben. There were consequences of Reuben not inheriting his destiny. Ci sono state conseguenze del fatto che Reuben non ha ereditato il suo destino. And our inability to fulfill potential can affect generations to come. E la nostra inabilità di vivere tutto il nostro potenziale può affettare e influenzare negativamente le prossime generazioni. Your inability to realize potential. La tua inabilità di renderti conto del tuo potenziale doesn't just affect you, it affects those who come after you. Non ha conseguenze solo su di te, ma ha conseguenze anche su quelli che ti seguono, che vengono dopo di te. What will be the causes of unreached potential? Quali possono essere le cause che ci mettono proprio nella posizione di non raggiungere il livello massimo di potenziale che abbiamo? I can only throw these out there for you. We can't explore them, but let me throw some things out. Non possiamo entrare nel dettaglio di ogni possibile causa, ma lasciate solo che vi elenchi le possibili cause. Fear can rob us of our potential. La paura può derubarci del nostro potenziale. A dislike for hard work can rob us of our potential. Il non avere voglia di impegnarsi, di lavorare, può derubarci del nostro potenziale. Refusal to take instruction can rob us of our potential. Il rifiutare delle indicazioni, la mancanza di sottomissione può derubarci del nostro potenziale. Living in the past can rob us of potential. Vivere nel passato può derubarci del nostro potenziale. Disappointment and hurt can rob us of our potential. Delusioni e dolore può derubarci del nostro potenziale. Let's read on in the chapter. Andiamo avanti nel capitolo. And I'm going to ask Naomi if she would read verse 22. E avanti leggiamo il verso 22. And we jump to the story of Joseph. E quindi qui facciamo un salto nella storia che riguarda Giuseppe invece. Verso 22. Giuseppe è un albero fruttifero. Un albero fruttifero vicino a una sorgente. I suoi rami si stendono sopra il muro. Come on. Isn't that cool? Non è meraviglioso? Isn't that cool? Non è fantastico? And if you keep reading the verses there, e se continuiamo a leggere i versetti successivi, you will read that there were attempts to bring him down. Leggiamo che ci sono stati dei tentativi di ostacolare Giuseppe. But that God helped him. Ma Dio lo ha aiutato. My prayer for you tonight, e la mia preghiera per ognuno di voi questa sera, is that your life would be like the life of Joseph. È che la tua vita possa essere una vita uguale a quella di Giuseppe. That you wouldn't be like Reuben, that you would be like Joseph. Che tu non possa essere come Reuben, ma che tu possa essere come Giuseppe. If any of Jacob's sons had an excuse not to fulfill their potential, se ci doveva essere uno tra i figli di Giacobbe ad avere delle buone scuse per non raggiungere il proprio potenziale. It was Joseph, right? Questo qualcuno Come poteva on. Essere Giuseppe, giusto? That guy had some good excuses. Cioè Giuseppe aveva delle buone scuse. He had some great excuses to offer to God for not fulfilling his potential. Cioè lui avrebbe avuto delle scuse solide, valide da presentare a Dio di non raggiungere il potenziale che Dio aveva dato a lui. He faced such incredible adversity. Lui ha affrontato delle avversità così incredibili. But he continued to rise to the top. Ma ha continuato a crescere. And his life is described as being like a fruitful branch of a tree. E la sua vita è descritta e paragonata a un albero che porta molto frutto. And he is planted by a nourishing water source. Un albero che è piantato vicino a una sorgente di acqua. And his branches reach over the wall. E i suoi rami sono così grandi che oltrepassano il muro. Come on, what a description of a life. Cioè, quale descrizione meravigliosa di una vita. I want my life to be like that. Io voglio la mia vita, io voglio che la mia vita sia come questa. I want my life to be like a fruitful tree. Voglio che la mia vita sia come un albero fruttuoso, fruttifero. I want to be planted by a nourishing water source. Voglio essere piantato vicino a una sorgente che si può prendere cura di me. And I want the blessing of my life to extend to others. E voglio che le benedizioni della mia vita possano benedire anche chi mi sta attorno. In my grandparents' house, a casa dei miei nonni, they had a number of fruit trees in the backyard. I miei nonni avevano diversi alberi che portavano frutto nel loro orto, nel loro giardino. On the right side of their backyard they had a plum tree. Quindi sulla destra loro avevano un albero di prugne. And this plum tree was always heavy with plums. E questo albero era sempre pieno, pesante a causa delle prugne che produceva. And some of the branches of this plum tree reached over into the neighbor's house. E alcuni dei rami di questo albero erano così grandi, così lunghi, che avevano raggiunto il giardino del vicino. So my grandparents had plums. E quindi i miei nonni avevano prugne. And their neighbors had plums. E anche i loro vicini avevano le prugne. At the back of their backyard, they're right down the edge. Alla fine, proprio in fondo al loro giardino, they had a fig tree. Avevano un albero di un fico. And again, this fig tree was very fruitful. E anche questo fico era così che portava abbondanza di frutto. And some of the branches of this fig tree reached into their neighbor's house. E alcuni dei rami di questo fico raggiungevano il giardino dei vicini. So my grandparents had figs. E quindi i miei nonni avevano i fichi. And their other neighbor had figs. E anche gli altri vicini avevano i fichi. That's what I want my life to be like. È questo questo è quello, è come io voglio che la mia vita sia. That's my prayer for you. Questa è la mia preghiera per voi. That the branches of your life would run over the wall. Che i rami della vostra vita possano raggiungere anche gli altri, possano andare oltre i muri. And that you would bring blessing and nourishment and life to so many other people. E quindi che possiamo portare benedizione e vita e cura alle persone che ci stanno attorno. That's my prayer for this church. Questa è la mia preghiera per questa chiesa. That's my prayer for this church. Questa è la mia preghiera per noi, per voi. That the branches of this church would run over the wall. Che i rami di questa chiesa possano oltrepassare i muri. And that the blessing of those branches would extend into neighboring towns and cities. E che la benedizione, il frutto di questi rami possano raggiungere il nostro vicinato e le persone che sono fuori. And that the blessing of those branches would reach into other nations. E che i rami di questa chiesa possano raggiungere anche altre nazioni. Why not? Perché no? Why not? Perché no? Come on, why not? Perché no? Su, andiamo. The potential's there, right? Il potenziale è qui, giusto? The potential is there. Il potenziale è qui. Why be like Reuben when you can choose to be like Joseph? Perché essere come Reuben quando noi possiamo scegliere di essere come Giuseppe? I'm going to choose to be like Joseph. Io voglio scegliere di essere come Giuseppe. I'm going to choose to live a life that blesses other people. Io voglio scegliere di essere una vita che porta benedizione anche alle altre persone. I'm going to do my best to fulfill my potential. E io farò del mio meglio per raggiungere il livello più alto del mio potenziale. Let me ask those questions again that I asked before. Lasciate che io vi ponga da capo le due domande, le domande iniziali. What areas of potential are underdeveloped or unexplored in your life? Quali sono le aree della tua vita che non sono ancora state scoperte, sono inesplorate, il cui potenziale non è raggiunto al massimo livello? What are you doing with the gifts that God has given to you? Che cosa stai facendo con i doni, i talenti che Dio ti ha dato? Whatever it is that God has invested in you. Qualunque cosa Dio ha investito nella tua vita. Be determined to make the most of it. Sii determinato a raggiungere il massimo potenziale. And live a life like Joseph. E vivi una vita come quella di Giuseppe. And if you're here and you don't know Jesus. E se tu sei qui e non conosci Gesù. I'm sure this talk of potential has been inspiring or encouraging. Sono sicuro questo discorso sul potenziale è stato magari di ispirazione, di incoraggiamento per te. But please, please understand. Ma cerca di capire, per piacere. I'm not approaching this as some sort of motivational speaker. Questo non è un discorso motivazionale. The only way we can really develop who we are supposed to be. Ma l'unico modo attraverso il quale possiamo sviluppare quello che veramente, la persona che veramente dobbiamo essere, siamo chiamati a essere, is to know the God who created us. È conoscere il Dio che ci ha creato. And there's a God who thinks you are absolutely amazing. E c'è Dio che pensa che tu sei meraviglioso. And he is very passionate about you becoming the man or woman that he created you to be. E il suo cuore è per te che tu possa diventare la donna e l'uomo che lui ti ha creato affinché lo fossi. Quindi lascerò che il pastore dia qualche dettaglio in più su questo. Just pray the blessing of Joseph over you guys. E quindi io prego la benedizione di Giuseppe su ognuna delle vostre vite. Have you forgiven me for mentioning the World Cup? Mi avete perdonato su quello che ho detto, per quello che ho detto dei mondiali? Am I forgiven? Sono perdonato? Thank God. I thought I'd blown it when I said that. Grazie a Dio, pensavo di avervi persi quando ho detto quello. I pray the blessing of Joseph over you. ma io prego la benedizione di Giuseppe sulle vostre vite. I pray fruitfulness over you. Io prego abbondanza di frutto su An di voi. Amazing connection to Christ. È una relazione meravigliosa con Cristo. And lives that are filled with blessing and bring blessing to others. Prego per vite che sono abbondantemente benedette e che sono anche di benedizione. I bless you. Io vi benedico. I bless you. Vi benedico.